Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di imprenditoria, di imprenditori, di potenzialità della realtà italiana, di trovare nuove prospettive appunto per creare imprese. Ne parliamo con Paolo Gila. Buonasera Gila. Buonasera. Paolo Gila, giornalista economico presso la RAI di Milano, molti ascolteranno i suoi commenti di borsa quasi tutti i giorni, ha scritto per l'edizione del Sole 24 Ore il libro 100 idee per 100 startup, storie esemplari di imprenditori che innovano per vincere la crisi. Quindi è un po' un elenco telefonico questo libro, Paolo Gila. Beh, diciamo che è un viaggio esplorativo, una sorta di mappa, un itinerario tra imprenditori di tutte le età che in questo periodo, per passione, per necessità o perché avevano un'idea nel cassetto e l'hanno tirata fuori, hanno creato impresa e sono riusciti a traghettare queste loro attività oltre le barriere della crisi di questi anni che tutti più o meno abbiamo superato, chi ammaccandosi di più, chi ammaccandosi di meno. Sono storie per certi aspetti esemplari proprio perché nascono da idee curiose, da idee innovative o perché questi imprenditori hanno puntato su nicchie che sono profittevoli. Ecco, quello che è interessante mi sembra è che ci sono settori certamente innovativi, certamente di alta tecnologia, certamente legati anche alle nuove prospettive di internet e della rete, ma ci sono anche delle professioni molto tradizionali, molto appunto legate alle esperienze più storiche, diciamo così, del territorio non solo italiano. Ecco, è stato facile trovare queste nuove realtà imprenditoriali? Beh, diciamo, parto con una premessa. Il libro intende proprio esplorare un po' tutti i settori dove queste nuove imprese si sono appalesate, perché ci sono realtà come appunto quello dell'innovazione e della tecnologia, ma ci sono anche aziende che nascono all'interno di comparti come la natura, la tradizione, il vivere sano. E all'interno di questi settori, nel corso dell'esperienza di lavoro, mi è capitato di incontrare questi imprenditori più o meno giovani e ho, diciamo così, registrato in memoria il loro nome, la loro attività e soprattutto ho trascritto il loro numero di telefono. E ci sono storie molto interessanti e simpatiche in settori tradizionali. Faccio qualche esempio: a Bussolengo c'è una calzoleria di un calzolaio che fa proprio le scarpe, non è una persona che le ripara, ma è una persona che le produce, è un maestro artigiano, si era diplomato in ragioneria e ha seguito le orme del padre in un'attività specializzandosi perché si era trovato poi senza attività e senza lavoro dopo alterne vicende. Lui si è specializzato nel progettare, nel realizzare delle scarpe per persone che hanno avuto incidenti stradali o che hanno avuto difficoltà nella deambulazione per vari motivi e ha affinato la sua cultura con corsi presso la Facoltà di Medicina di Verona e presso altre realtà. Beh, per dirla in breve, oggi lui progetta le scarpe, le calzature al computer dopo aver fatto le foto e aver preso le misure ai suoi clienti, e sono sempre di più le persone che hanno dei problemi ai piedi che si rivolgono a lui per poter camminare in salute e in benessere. Mi sono dilungato, ma faccio qualche altro piccolo esempio. Nelle pianure piemontesi, a dire il vero nelle zone collinari, perché parliamo delle Langhe del Monferrato, ma in una zona di campagna, c'è chi ha pensato di aprire un agriturismo indirizzato agli artisti e quindi ci sono pittori e musicisti che possono andare in convenzione in questo agriturismo e in questa realtà è libera la creazione artistica. Allora i clienti dell'agriturismo e gli artisti si ritrovano per parlare di musica, per vedere come viene creato un quadro e si è creato, diciamo così, una sorta di circolo degli amanti della natura, del buon vivere e dell'arte, e che si ritrova quasi ogni fine settimana. È un modo intelligente di vivere un turismo sano, ma è anche un modo intelligente per poter aprire un'attività di nicchia che altrimenti non sarebbe stata aperta. Un altro esempio viene dalle zone di Pescara. Tre disoccupati che erano rimasti senza lavoro perché le loro attività avevano chiuso, le realtà dove lavoravano, si sono incontrati, hanno cominciato a guardarsi in faccia e hanno detto: beh, che cosa possiamo fare? Insieme queste tre persone hanno costituito una cooperativa sociale, Mangiar Sano, e si occupano di raccogliere e distribuire dai vari produttori agricoli prodotti del Made in Italy. Hanno creato una catena che si sta espandendo in Italia e all'estero. Vivono questa realtà da ormai 5-6 anni e si sono garantiti un reddito, e adesso il loro pensiero, la loro ambizione li porta a scrutare un orizzonte un po' più vasto. Ecco, quindi fare con metodi nuovi delle realtà tradizionali, dei prodotti anche tradizionali che rispondono alle esigenze antiche quanto il mondo, che però grazie all'inventiva, alla creatività, anche un po' alle tecnologie, possono essere affrontati in modo nuovo e essere nuovi strumenti di business. Ecco, in questa prospettiva un capitolo dedicato per esempio alla green economy. Esiste davvero la green economy? Beh, diciamo che la green economy è soprattutto un'emozione, una cultura, un mito. Non è ancora calata degnamente con attività produttive che siano delle vere e proprie filiere. Però sicuramente esistono delle realtà significative, come ad esempio la Green Fluff di Arese. Il fluff è tutto ciò che rimane dell'auto dopo la rottamazione, escluse le parti metalliche, cioè parliamo di recupero di polistirolo, plastiche, gomma. Tutto questo materiale può essere recuperato. La green economy è tipicamente ottenere delle risorse dall'ambiente oppure recuperare materiale già utilizzato per evitare che vada nell'ambiente o vada a inquinare. Bene, questa realtà Green Fluff è stata costituita da un poco più che trentenne, Diego Giancristofaro, che ha trovato lungo la sua strada dei capitali con cui ha fortificato questa sua idea. L'azienda che cosa fa? Sminuzza tutto ciò che resta di una auto, separa le varie componenti, i vari materiali e li ridistribuisce alle aziende che poi li utilizzano. Quindi il poliuretano, le gomme, le plastiche vanno verso un certo tipo di industria e il metallo va verso l'industria siderurgica. La curiosità è che Green Fluff sorge dove una volta c'era la Alfa Romeo di Arese, perché è una società che si è insediata proprio nell'area ex Alfa, e i 15 dipendenti che lavorano all'interno di Green Fluff sono ex dipendenti dell'Alfa che sono stati recuperati e reinseriti in questa attività. Io ho fatto un esempio, ce ne sono diversi, sono numerosi, ci sono anche delle officine che lavorano in Emilia-Romagna che recuperano proprio i materiali di scarto delle industrie. È ovvio, uno dei settori dove più ci sono attenzioni è proprio quello dei rifiuti industriali e dei rifiuti urbani. Però dobbiamo anche pensare ad esempio a una realtà sempre della zona di Pescara che ha realizzato degli alberi ecologici che sono in grado di raccogliere la luce e tradurre questi fotoni della luce in corrente elettrica con cui alimentano l'illuminazione di un pezzo della ferrovia. Sono alberi ecologici che consentono anche di ricaricare computer e palmari se si passa vicino a questi alberi che sono collocati lungo il mare, lungo la ferrovia, e questo è un progetto che viene diffuso presso le municipalità per consentire ad esempio wifi, ricariche di cellulari e quant'altro. C'è un altro esempio che mi permetto di fare. C'è una storia molto simpatica di un imprenditore italiano che, girando il mondo, era venuto a sapere agli inizi degli anni 90 che in Sudafrica un gruppo di ricercatori stava studiando delle batterie al sale, cioè non batterie al litio, al piombo, ad altri minerali, cioè usava proprio sale, che è cloruro di sodio in accoppiata con il cloruro di nickel. C'è riuscito a fare batteria al sale? Sì, questa batteria al sale è stata realizzata e il brevetto è stato soffiato alla Daimler Chrysler, che aveva esercitato un'opzione per poterlo ritirare. Questo imprenditore non ha trovato attenzione all'inizio in Italia, ma in Svizzera, è andato a costituire un'azienda che produce batterie al sale a Stabio, nel Canton Ticino. Però negli ultimi mesi, nel 2010, un'azienda italiana che produce batterie tradizionali, la Fiam, ha pensato di mettersi d'accordo con questo gruppo, che intanto si era allargato perché l'imprenditore italiano Senigallia aveva trovato un socio, Carlo Bianco, in Svizzera. Bene, la Fiam e questa azienda, la Mesdea Svizzera, ma fatta da italiani, ha costituito una joint venture a Montecchio Maggiore nel Vicentino. Questa azienda si chiama FZ Sonic e produce le batterie al sale, che pesano il 40-45% in meno rispetto alle batterie al litio e già oggi vengono utilizzate su alcune auto elettriche di piccole e medie dimensioni, perché non si riesce a fare di più. Comunque diciamo che esistono Fiat Panda e Renault Twingo che montano queste batterie al sale. Grazie mille Paolo Gia, capisco che parleresti a lungo di queste scoperte, che sono certamente entusiasmanti come startup, come aziende che hanno già raggiunto successo. Ma chi vuole saperne di più, compri questo libro edito dal Sole 24 Ore, 100 idee per 100 startup, scritto da Paolo Gila, giornalista presso la Rai di Milano. Storie esemplari di imprenditori che innovano per vincere la crisi. Lo ricordo, è un libro di 192 pagine per 19 euro. Grazie a Paolo Gila per averci un po' entusiasmato di queste idee, di queste startup. Così come ringrazio Filippo Reggi in regia, Anita Panini in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e alla prossima settimana.